Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Quello che mi spetta, primo bestseller della scrittrice iraniana Parinoush Saniyeh, è stato per molto tempo in testa alle classifiche dei libri più venduti nel suo paese, prima che il regime di Ahmadinejad lo mettesse al bando, perché rivelava la vera condizione delle donne in Iran. Racconta la storia di Masumeh, quindicenne che vive a Teheran, da sempre abituata ad obbedire al padre e ai fratelli. Un giorno però, disobbedendo alle regole, la ragazza ricambia lo sguardo di Sayed, il giovane apprendista della farmacia che tutti i giorni la fissa quando la vede passare. E quando, accompagnata dall'amica Parvaneh, torna a casa, deve affrontare l'ira del padre, della madre e dei fratelli, che per lei avevano già scelto un altro uomo e che soprattutto pensano che il comportamento immorale della ragazza debba essere severamente punito. Quando giungemmo alla porta di casa, il sole era ormai tramontato e l'aria si era fatta più fredda e buia. Non avevo ancora suonato il campanello che la porta si aprì e qualcuno mi trascinò in casa. Parvaneh non capì cosa stava succedendo e provò ad entrare con me, ma mia madre, Khanum Jun, l'aggredì, spingendola fuori e urlandole che non voleva più vederla e che era tutta colpa sua, ma di cosa, prima di sbattersi la porta alle spalle. Io caddi dai gradini nel giardino e Ali mi trascinò per i capelli all'interno della casa. Mi vergognavo tremendamente per la brutta figura con Parvaneh. Diedi dell'idiota a mio fratello e gli intimai di lasciarmi andare, ma Khanum Jun fece irruzione nella stanza e anche lei mi strattonò borbottando maledizioni contro di me, mentre io le chiedevo che cosa era successo e se erano diventati tutti pazzi. «Mi chiedi cos'è successo, puttanella, dopo esserti messa a civettare davanti a tutti con un estraneo?» «Ma di che estraneo parlate? Mi faceva un male tremendo il piede e il dottore della farmacia gli ha dato un'occhiata e mi ha consigliato qualche medicina, ecco tutto. E poi il dottore è Maram». «Dottore, dottore, da quando in qua un apprendista di farmacia è diventato medico? Pensi che io sia stupida e non capisca? Che non mi sia resa conto che stai nascondendoci qualcosa?» «Vi prego, Khanum Jum, non so di cosa stiate parlando». Ali, anche se era ancora un bambino e non aveva nemmeno cambiato voce, aveva le vene del collo che gli pulsavano e mi tirò un calcio, dicendo che lui ci aveva seguite tutti i giorni e aveva visto lo sbruffone della farmacia che si guardava intorno davanti al negozio per vederci passare e che i suoi amici lo prendevano in giro. «Tua sorella e la sua amichetta combinano qualcosa con quel ragazzo». Mia madre si batté forte sul capo. «Elai, che possa vederti sul letto di morte, guarda come ci hai disonorato. E adesso cosa dico a Daga Jun e ai tuoi fratelli?» E mi strattonò di nuovo. In quello stesso istante, la porta della stanza si spalancò, mostrando Ahmad che mi fissava furibondo con gli occhi iniettati di sangue e i pugni serrati. Aveva sentito tutto. Con voce rauca grugnì. «Alla fine sei riuscita a fare di testa tua. Ecco, Khanum Jun, prendetevela e tenetevela così adesso. Io sapevo sin da quando abbiamo messo piede a Teheran che questa disgraziata, impiastricciandosi e andando in giro con quella ragazza tutti i giorni, avrebbe infranto il nostro onore. E ora con che coraggio possiamo alzare la testa di fronte ai vicini? Con quale coraggio possiamo guardarli in faccia?» Urlai che non avevo fatto niente, che stavo cadendo per strada per il male alla caviglia. Così mi avevano portato dentro la farmacia e dato un antidolorifico e nient'altro. Mia madre gettò uno sguardo al mio piede che si era gonfiato e quando lo toccò gridai per il dolore. Non potei trattenermi dal continuare. «E poi ancora con questa storia dell'onore. Chi è che ci disonora veramente? Io o tu che torni a casa ubriaco fradicio ogni sera? Tu che te la fai con una donna sposata?» Mio fratello Ahmad balzò in mezzo alla stanza e mi diede un ceffone così forte che sentii in bocca il sapore del sangue. Allora impazzii. «Vuoi forse sostenere che non è vero? Ti ho visto io stessa che ti intrufolavi di nascosto in casa loro quando non c'era suo marito e non era nemmeno la prima volta!» Un pugno mi raggiunse l'occhio dal basso. La testa mi girava e per un attimo pensai di essere diventata cieca. Tenendomi ferma, mia madre mi gridava di stare zitta, di vergognarmi. Mi divincolai dalla sua presa. Ormai ero un fiume in piena, carico di rabbia e di disprezzo. Pensi che non lo dirò a suo marito? E voi non vi siete accorti che si ubriaca tutte le sere? L'hanno già portato 2 volte al commissariato perché era stato coinvolto in risse a mano armata. E queste cose non infangano l'onore della famiglia, mentre io vi disonoro entrando semplicemente in una farmacia. Questa volta 2 ceffoni mi raggiunsero le orecchie facendomi di nuovo un gran male, ma non placarono la mia rabbia. Mia madre continuava a ripetermi di stare zitta e mi augurò di perdere la voce. Mi urlò che io ero una femmina e mio fratello un maschio e infine pianse chiedendo pietà a Dio e maledicendo me, augurandomi di bruciare all'inferno. Giacevo distrutta in un angolo della stanza. Mi sentivo male nel corpo e nello spirito. Avevo perso tutte le mie speranze e lacrime calde continuavano a sgorgarmi dagli occhi. Poi sentii lo Ya Allah di mio padre Agajun. Non aveva mai abbandonato l'abitudine, anche se in casa non c'erano altre donne oltre a noi della famiglia, di annunciare la sua presenza ogni volta che rientrava. «Salam, Aga Mustafa, già di ritorno? Come mai sei a casa così presto?» lo salutò mia madre. «Con questo freddo nessuno esce per fare la spesa e così ho pensato che potevo chiudere il negozio e tornare prima. Certo che è strano vedere Ahmad a casa a quest'ora. Forse oggi la taverna ha chiuso presto, Kanum?» Mio padre parlava di rado con Ahmad e infatti sembrava che stesse rivolgendo il suo commento alla porta nella direzione opposta a quella dove si trovava il figlio. «Direi proprio di no, Agajun, ma finché non avrò capito bene quello che devo, non me ne andrò da nessuna parte!» Mio padre poggiò una mano sullo stipite della porta e si sfilò le scarpe. La luce fioca della lampada illuminava parte della stanza, ma io mi ero accasciata di fianco al Corsi e quindi non poteva vedermi. Con sarcasmo ribatté a mio fratello che pensava di essere lui ad avere dei conti in sospeso con Ahmad e non viceversa. Ahmad rispose prontamente che non si trattava di lui, ma di me, quella puttanella di sua figlia. Agajun diventò bianco come un lenzuolo. Non si capacitava di ciò che Ahmad stava insinuando. Dopotutto il mio onore era anche il suo. Mio fratello non ebbe pietà. «Non capite? Quella disgraziata non ci ha lasciato nemmeno un briciolo di onore!» «Aprite gli occhi, Agajun, e lasciate in pace me! Se ne sono accorti tutti tranne voi che avete tenuto la testa sotto la sabbia finora!» Il papà tremava visibilmente. La vena che aveva sulla fronte si era gonfiata così tanto che anch'io riuscivo a vederla. Mi cercò con lo sguardo e mi intravide accanto al Corsi. Poi accese la luce per vedermi meglio. Sembrava spaventato. «Cosa ti hanno fatto?» Si avvicinò e mi aiutò a sedermi. Poi tirò fuori il fazzoletto e mi pulì la bocca dal sangue. «Chi ti ha conciato così?» Le lacrime ripresero a scorrermi sulle guance. «Disgraziato, vigliacco senza vergogna! Alzi le mani anche sulle donne adesso!» «Ma bene! Ora sono io quello dalla parte del torto!» disse mio fratello Ahmad. «Ma chi se ne frega? Io non ho più una sorella. Che si faccia toccare e insozzare da chi vuole, tanto il danno è fatto e ormai siamo disonorati!» Mio padre cercava di difendermi da Ahmad, che mi si stava scagliando addosso ancora una volta. «Non ti azzardare a toccarla! Le tue parole non si addicono a Masumè! La sua preside ha detto che non c'è ragazza più educata e pura di lei in tutta la scuola!» «Ah, davvero? Allora la scuola non è altro che un bordello!» Mio fratello più piccolo, Ali, appena rientrato, diede manforte ad Ahmad e cercando di sovrastare le altre voci gridò che aveva ragione, che era tutto vero, che mi aveva visto mentre mi facevo accarezzare il piede in farmacia e che tutti i giorni io e Parvane passavamo di lì andando a scuola e rispondevamo ai saluti del giovane con sorrisi ammiccanti. Io però continuai a difendermi da tutte le accuse, ma Ali non aveva ancora finito di fare la spia. «C'è dell'altro. Qualche giorno fa, appena sono entrato nella stanza dove studiavano, hanno nascosto dei fogli sotto i piedi.» Sentii il cuore in gola. Se avessero trovato la mia cartella, sarei stata perduta. Avrebbero scoperto le lettere e per me non ci sarebbe stata via di scampo. Mi sentii raggelare il sangue nelle vene e mi si seccò la lingua. Non riuscivo più a parlare ed ero in preda al terrore. Con uno scatto Ali prese la cartella e ne rovesciò l'intero contenuto. Non potevo fare nulla. Mi girava la testa ed ero completamente paralizzata. Le lettere caddero a terra dai libri che Ali scuoteva con violenza. Ahmad le afferrò tutte con un solo gesto e ne aprì subito una. Aveva sulla faccia l'espressione soddisfatta di chi ha ricevuto il premio più ambito al mondo. Lesse con voce scossa dall'emozione della vittoria. Poi il suo tono si fece canzonatorio. «Ecco, signor padre, ascoltate e godete. Gentile signorina, Il mio cuore è uno specchio coperto da un velo di tristezza che voi sola potrete soffiare via con un semplice sorriso. Glielo faccio vedere io un sorriso che non si scorderà più, educata e pura come il suo stesso nome. È così che avete detto, Agajun? Io mi contorcevo dall'imbarazzo e dalla rabbia, vedevo tutta la stanza girarmi intorno. La mamma si disperava. Che io possa morire. Ma il tormento non era ancora finito. Ali aveva trovato anche la mia risposta. Ahmad gli strappò la lettera dalle mani. Ma bene, la signorina gli rispondeva pure. Mahmud, che era stato zitto fino a quel momento, ma si era fatto sempre più paonazzo, all'improvviso esplose. Non ve l'avevo forse detto? Non l'avevo previsto? Una ragazza che ogni giorno si fa bella davanti allo specchio, che va in giro per strada senza hijab insieme alle amiche, che frequenta una scuola poco seria di Teheran insieme ad altre ragazze già perdute, come fa a rimanere sana? Ho insistito che bisognava darla in sposa subito, ma sempre mi è stato risposto di no, che la signorina doveva andare a scuola. Sì, a scuola, per imparare a scrivere lettere d'amore. Era inutile cercare di difendersi. Ero disarmata e con le spalle al muro. Guardai mio padre con timore e vergogna. Era diventato così pallido e le sue labbra tremavano così tanto che mi spaventai. Sussurrando appena mi disse: «È così che mi ringrazi. È questo ciò che mi merito». Hai mantenuto proprio bene la tua promessa, per non parlare del mio onore. Quello sguardo e quelle parole erano molto più pesanti e dolorosi di tutte le botte che avevo preso e mi trafissero il cuore come un pugnale. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal romanzo di Parinush Saniyeh, Quello che mi spetta, Garzanti Editore, 432 pagine, €19,60. Letture di Radio 24. Dopo aver cercato negli ultimi anni di far riemergere i lati più oscuri della guerra civile italiana, Giampaolo Pansa si dedica nel suo ultimo libro ad un'altra operazione di revisionismo. Ripercorrendo i 40 anni di storia della Prima Repubblica, cerca di capire se fosse davvero così diversa dalla Seconda e se non sia il caso, magari, di iniziare a rimpiangere i politici di una volta. E lo fa partendo dal suo ricordo personale di quelli che lui chiama i cari estinti, personaggi che nella maggior parte dei casi sono usciti definitivamente dalla scena politica, anche se non proprio tutti erano politici di professione. Ecco ad esempio come Pansa rievoca il clima di attesa che accompagnava al primo ingresso in Parlamento di Cicciolina. Contro ogni previsione, Ilona Staller, detta Cicciolina, venne eletta deputata per i radicali nella lista dei federalisti europei. E quando entrò per la prima volta a Montecitorio, ci rendemmo conto di una verità che riguardava la sua arma principale, il sex appeal. La Staller ne aveva meno, molto meno della pornostar che l'accompagnava, Moana Pozzi. Fu quest'ultima la stella del 2 luglio 1987, giornata inaugurale del decimo Parlamento. Per cominciare era un pomeriggio di caldo africano, di cappa grigia e di sole malato. Nel transatlantico si aspettava soprattutto lei, Elena Anna Staller, detta Ilona, in arte Cicciolina, anni 35, nata a Budapest. Nel corridoio dei passi perduti si vagava dentro un silenzio irreale, commessi allerta, efficienti e sardonici, granatieri di Sardegna costretti a montare la guardia al nulla, cronisti sul nervoso e più sospettosi del solito l'uno dell'altro. Ma Cicciolina era ancora lontana all'orizzonte. Dei portavoce improvvisati spiegavano che sarebbe arrivata alle 15:30, non un secondo prima né uno dopo. Anche da pornostar era pur sempre una professionista dello spettacolo, attenta allo scoccar del minuto e giustamente vogliosa di un'entrata in scena al momento giusto. A forza di chiacchierare sulla preferenza multipla e su campagne elettorali miliardarie, arrivammo vicini al momento dell'apparizione di Madama Staller. Altero e petrolinesco passò Marco Pannella, il papà di Cicciolina deputata. Passarono gli onorevoli radicali Francesco Rutelli e Massimo Teodori, cuginetti controvoglia di Ilona. Erano imbufaliti e dicevano cosacce su di lei. Cominciò a schierarsi l'enorme pattuglione dei fotoreporter, dei radiocronisti, dei cameraman, poi quello dei cronisti con penna e taccuino, me compreso. Ma non erano ancora le 15:30 e la Staller, cronometrica, latitava. Passò di nuovo Pannella e adesso sembrava nervoso. Passò un ex ministro di lunga durata, Vito Lattanzio. Passò una splendente stangona vestita di giallo, ma era una cronista del Gazzettino di Venezia. Passò una coppia a braccetto, abbronzata e grinzosa.